Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. E di quasi 5.000 chilometri con l'equivalente di un litro di benzina, avete capito bene, quasi 5.000 chilometri con un litro, per la precisione sono 4.896,1 e da quelle parti ci tengono anche decimali. Bene, parliamo del record storico stabilito l'anno scorso durante l'edizione europea della Shell Eco Marathon, la competizione in cui si sfidano studenti di tutto il mondo, il cui scopo, come avrete a questo punto intuito, è la realizzazione di un veicolo il più efficiente possibile. Quest'anno, tra i 222 team che parteciperanno alla competizione, 16 sono italiani e in linea con noi ce ne sono ben due. Diamo il benvenuto, tanto per cominciare, al professor Riccardo Silimbani, docente dell'Istituto Tecnico ITIP di Faenza Luigi Bucci, che partecipa dal 96 a questa competizione. Buonasera Bucci. Buonasera. L'altra persona in linea con noi è la professoressa Massimiliana Carello, docente invece del Politecnico di Torino, che è alla sua quarta Shell Eco Marathon. Buonasera Carella. Buonasera. Allora Silimbani, abbiamo un sacco di cose da dire, cominciamo da lei. Voi siete stati appunto i primi a partecipare nel 96 tra gli italiani a questa competizione. Con quali veicoli parteciperete quest'anno? Bene, quest'anno parteciperemo con due veicoli, uno nella categoria Urban Concept, che sarà alimentato elettricamente, e un altro nella categoria Prototipi, alimentata ad etanolo. Qual è la differenza fra queste due categorie? Perché sono appunto due categorie ben diverse. Dunque, le due categorie, una, l'Urban Concept, in pratica sono delle piccole city car, con delle regole diciamo abbastanza aderenti a quelle dei veicoli che convenzionali, diciamo così, che viaggiano per strada, sì. Luci, frecce, clacson, quattro ruote soprattutto e anche dimensioni con simili a quelle delle city car, mentre i prototipi sono delle macchine estreme che la maggior parte hanno tre ruote, due anteriori e una posteriore, piccolissime come dimensioni, fascino il pilota che deve essere di dimensioni anch'esso minime. Ecco, diciamo che delle bare aerodinamiche forse una buona definizione per questi oggetti, no, vero? Siccome sono studenti che partecipano, insomma, preferisco pensarla più in un altro modo, un giocattolo più che una bara. Senta Carello, quali sono invece le tecnologie che avete scelto voi? Proseguiamo con la nostra avventura col prototipo che abbiamo iniziato 3 anni fa, con un prototipo con una fuoricella a idrogeno. E ci cimenteremo con un veicolo, un Urban Concept ibrido con un motore termico a benzina e un motore elettrico con degli ultracapacitori, insomma. Ecco, a questo punto abbiamo anche capito che ci sono vari sistemi di alimentazione, in qualche modo vanno raffrontati tra loro. Salta fuori questi chilometri con un litro di benzina, come si fa a paragonare tutti questi sistemi di alimentazione? Energetici. Sì. Il modo che ha pensato la Shell è di calcolare attraverso i poteri calorifici dei diversi sistemi utilizzati, idrogeno, gasolio, benzina, eccetera, rapportare il consumo di combustibile a un attraverso appunto potere calorifico in chilometri equivalenti con un litro di benzina. Tra l'altro è un calcolo semplice, parliamo delle ben note equivalenze, insomma quelle che si studiano alle medie, giusto? Sì. Va bene, senta Silimbani, perché avete scelto di partecipare a questa competizione? Che cosa vi ha spinto? Beh, sicuramente è stata una scelta dovuta alla motivazione che vogliamo dare ai nostri studenti per coinvolgere di più nelle materie tecniche, soprattutto meccanica ed elettronica. E in più devono anche imparare gli studenti a lavorare in team, a capire che anche diciamo da ciascuno di loro può dipendere il successo dell'evento e quindi responsabilizzarli. Per cui è proprio una palestra educativa importantissima che ha anche delle ricadute sul percorso scolastico. E certo, perché poi insomma uno fa il veicolo più efficiente del mondo, gli si buca una gomma e finisce la gara. Dunque Carello, immagino che lei sia d'accordo con Bucci su questo aspetto. Sono perfettamente d'accordo, perché queste sono le stesse nostre idee con cui siamo nati, quindi sostanzialmente un percorso formativo in cui gli studenti, se vogliono, dal prototipo all'urban possono mettersi in gioco anche per alcuni anni, diciamo così. Ecco, senta Carello, oltre però a questo aspetto formativo, vengono fuori, diciamo, da queste ricerche delle possibili soluzioni trasferibili al mondo dell'automotive? C'è un aspetto che insomma mi fa riflettere, questi risultati così sorprendenti nella categoria Urban Concept il record di 747 km con un litro. In quella combustione interna, quindi parliamo della stessa tecnologia a bordo delle automobili che girano per strada, abbiamo 348 km con un litro. A questo punto la riflessione è inevitabile. Perché facciamo così fatica nei veicoli tradizionali a staccarci da questi 20 o 30 km con un litro? Io credo che le prime cose da tenere presente in questi numeri sorprendenti della Shell EcoMarathon sono i pesi ridottissimi del veicolo. Quest'anno l'Urban Concept può pesare al massimo 205 kg, quindi un effetto di peso, e la prestazione è una prestazione in consumo a una velocità media che è dei 25 km orari. Quindi non è una gara il veicolo di velocità. È pensato per i 25, non per i 150, quindi è tutto rapportato velocità e pesi contenuti del veicolo. Forse bisogna muoversi in un'ottica di mobilità urbana con velocità più ridotte e veicoli con dimensioni e pesi più ridotti, e forse il consumo potrebbe essere non 340, ma sicuramente migliore dei 20 km con un litro. Silimbani, 50 km con un litro, ce la facciamo? Sicuramente, io quello che vorrei aggiungere magari è che anche le potenze in gioco sono nettamente inferiori, cioè noi abbiamo dei veicoli con 600 watt di motore o contro i 60 kilowatt di un utilitario. Cioè, 100 volte più basso. Quindi io credo che se si riducono le potenze, si riducono i pesi dei veicoli, penso che sicuramente i 50 km possano essere raggiunti. Si potrebbero fare, vero? Va bene, grazie a tutte e due, grazie Silimbani. Arrivederci, in bocca al lupo a Torino. Grazie Carello. Grazie Silimbani, arrivederci a Lausitz, ciao. Va bene, buon fine settimana, lunedì parliamo di schermi LCD a consumo praticamente zero. Buona serata.